I compagni di Ulisse, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Al signor Duca di Borgogna. O dei numi immortali, unico oggetto e cura e amor, a me date ch'io possa i vostri altari, o principe, quest'oggi di qualche profumar nobile incenso. È un poco tardi, a me scendono gli anni, ahimè, già troppi, onde il mio spirito giace languido e stanco, mentre in voi ribolle e cresce e grida giovinezza, e vola come avesse cent'ali. Il grande eroe, dal qual traeste qualità sì belle, non arde men quando lo chiama il suono della bellica tromba, e a lunghi passi andrebbe solo a stringer la vittoria, entro la man. Ove non fosse un dio, il gran Luigi, io dico, avolo vostro, che li trattenesse. Vincitor del Reno, in un breve girar di soli il mondo lo vide, quando fulmine di guerra scese con arte che sarebbe ardita oggi, e fu bella al minacciar dei mali. Ma basta, signor mio, riso ed amore, che in casa vostra sono i tutelari geni e vi seguon sempre ombre fedeli, non aman le noiose litanie. Altri dei favorevoli governano le case vostre, e io dico la ragione e il buon senso con sicuro impero. Se voi li consultate, a voi diranno qual senso ascoso si rimpiatti in fondo di quel racconto, in cui detto è dei greci che, pazzi e imprudenti, erano condotti alle vane lusinghe, in sozze e cieche bestie cangiarono l'immortal natura. Dopo 10 anni di sofferenti affanni, i compagni d'Ulisse in preda al vento ivan perduti e di lor sorte incerti. Quando approdar ove sue corte tiene, con lusinghieri inganni, Circia, figlia del Sol, in un momento per opera di velen dolce e sottile a lor guastò le vene e tolse il lume di ragion. Ed ecco, non molto tempo dopo, a qual spuntan le corna, a quale il becco che diventa elefante, orso o leone, e chi ridotto in piccola misura ti piglia la figura d'una talpa, d'un rettile, d'un topo. Soltanto Ulisse, al qual diede natura astuto accorgimento, sfuggì alla malvagia del tradimento, e poi che unisce a saggio accorgimento alto valore e nobile figura, a veleno opponendo altro veleno trasse la maga in quel soave ardore che sforza a favellar voci d'amore. Nessuna dea, si dice, può nascondere la fiamma ch'ha nel cuore. Ulisse prese la parola al volo e comperò riscatto facilmente di tutta la sua gente. Vorran essi tornar, dice la diva, alle sembianze loro primitiva? Per me poco lo credo, ma di farlo se credi lo concedo. Subito Ulisse vola, dove se stanno come porci in brago i suoi compagni, e dice: ogni veleno ha il suo rimedio, e questo io tengo in mano. Di voi, se alcuno è vago di ripigliar l'antico volto umano, parli, che ridonata è la parola. Parla il leon, credendo di ruggire. Per me non son sì matto, e rinunciar non voglio ad ogni patto, è bene che acquistai nel divenire. Leon con ugne e denti, che fan tanta paura ai prepotenti. Oggi son re, ma se si cangia il fato e torno ancora cittadino d'Itaca, il re ritorna un umile soldato. Ulisse allora si rivolge all'orso e: amico, esclama, o amico poveretto, quanto mutato d'animo e d'aspetto, qual male all'uomo saggio? Rispondeva il buon orso in suo linguaggio. Per orso son ben fatto, né devi giudicar che il bello sia soltanto in una forma in armonia, col tuo giudizio, ovver col tuo ritratto. Che se non credi ancora, dimandalo a quest'orsa che mi adora. Se ti dispiace va, lascia ch'io goda in pace il mio far nulla e la mia libertà. È bello quel che piace. Ulisse, il greco principe, si volta al lupo e prevedendo la risposta, fratello, dice: ah, quanto al cor mi costa che tu sia così tristo doventato. Tu fosti valentuomo un'altra volta pronto a salvar gli armenti ed ora, lupo cieco ed arrabbiato, le pecore spaventi e di tue stragi fai piangere la bella gentile pastorella. E ciò che importa a me, padron Ulisse, il tristo lupo disse, e tu chi sei che a me parli d'amore e sensi di pietà? Senza di me non vedo forse gli uomini mangiar montoni e pecore e nei villaggi spargere il dolore? Uomo posso tornar, ma non umano per la mia fe, se io miro come in fraterne stragi l'uom deliro insanguina la mano. E il lupo di se stesso anche diviene. Tutto sommato, adunque, il male e il bene, visto considerato che scellerato vale scellerato, che d'esser lupo ancor conviene, non voglio cangiar stato. A quanti Ulisse fece la proposta non ebbero altra risposta. Grandi e piccini tutti preferivano la libertà, l'aperta aria dei boschi e il far quel che più pare alla gloria difficile ed incerta delle belle virtù. E mentre si credean dei ceppi liberi cadeva di se stessi in servitù. Avrei voluto, o principe, un felice argomento inventar nel qual commisto fosse l'utile al dolce, ma vi è noto, signore, come forma non si accorda molte fiate all'intenzion dell'arte. Ben venga Ulisse coi compagni suoi, io dissi alfin, di cui l'esempio è vivo ancor nel mondo. Questi stolti, e son molti seguaci, avran nell'alto e santo sdegno del vostro cor giusto castigo. Fine della favola. I compagni di Ulisse. Questa registrazione è di dominio pubblico.